Plutone, Mercurio, Marte, Venere, Giove, Terra. America, Asia, Africa, Oceania, Europa, Germania, Spagna, Francia, Messico, Marocco, Argentina, Italia, Basilicata, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Bologna, Milano, Torino, Cuneo, Pescara, Palermo, Roma, Eur, San Lorenzo, Magliana, Appio Claudio, Esquilino, Piazza Vittorio, Via Odirisi da Gubbio, Via Labicana, Via dei Fiorentini, Via del Corso e le persone. Anna, Erika, Lorenzo, Nonno, Macchiusi, Enzo. Agosti! Agosti, sveglia! Che cazzo stai a dire che devi rifare l'esame di terza media? Nonno, no, perché? E sembrava che te stavi a ripassare scienza e geografia, che cazzo dei sogni te fai? E non stava a sognare, nonno, stava a pensare. Ah, stavi a pensare? E che c'entra Plutonio con San Basilio? Ah, nonno, ma che vuoi? Che voglio? Qua ce lo porta più nessuno. Paremo baraccati su sto pianerottolo, manco i filippini ci salutano più. Passano in venti, ci ignorano. Sastri infami maledetti che ci hanno occupato casa, ci lasciano pure la monnezza fuori dalla porta. E qualcuno stanotte mi ha spento una cicca dentro le scarpe. Ah no, nonno, tocca portare pazienza ancora un po'. E perché? Perché adesso basta, nonno, adesso basta. Adesso ce la riprendiamo a casa nostra, lo sai perché? Perché ci abbiamo ragione. Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata. Lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, d'orucola tu, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera. Mi chiamo Agostino Salvatori, ho 40 anni, vivo in questo quartiere solo da poco, prima stavo in un residence popolare, ma a un certo punto mi sono reso conto che proprio non si poteva fare, perché lì dentro si fa una vita d'inferno, gli spazi sono risicati, se ti viene a trovare qualcuno deve lasciare il documento, tu devi rientrare entro mezzanotte, sembra di stare agli arresti domiciliari pure se non hai fatto niente. Un mio amico mi ha detto che si era liberato questo appartamento con un affitto che mi potevo permettere, vicino c'è la fermata dell'autobus. C'è pure un centro commerciale, c'ero già stato, ma c'ero comprato una centrifuga che trita in pasta, 100 euro. Pure se non l'abbiamo mai usata, perché non ci serviva. Però la commessa ci ha convinto che senza sta centrifuga eravamo dei pezzenti. Per non fare brutta figura con mia moglie, l'ho comprata. Poi però la sera, quando sono tornato a casa, mi sono reso conto che avevo passato 12 ore a ristuccare in soppalco per comprarmi una centrifuga. Un po' mi veniva da piagne, Ma sono andato avanti. Anna era contenta, i bambini erano contenti. Quei 60 metri quadri non erano tanti, no? Però erano i nostri, ci sembravano il paradiso. Così ho dato una bella rinfrescata alle pareti, una botta all'impianto elettrico e finalmente abbiamo incominciato a metterci le nostre cose definitive. Per prima cosa abbiamo comprato il frigo, un Whirlpool bianco in offerta speciale. Praticamente ce l'hanno tirato appresso, perché i frighi vanno comprati d'inverno, costano di meno, come le giacche a vento, no? Se le compri d'estate. Sono piccoli accorgimenti per risparmiare. Pure il vestito per la prima comunione di mio figlio, Lorenzo. Io l'ho preso come mi ha detto il prete, l'ho preso blu, con la cravattina blu, la camicia bianca. Però pure se la comunione è a maggio, io ho preso un vernale, ho pagato la metà, tanto è giorno solo. Quel giorno Lorenzo era il bambino più bello del mondo. Quando gli hanno dato la prima ostia, no? Stava lì con lo sguardo tutto ispirato, le manine giunte, tutto sudato. Mi ha fatto una tenerezza. E forse quel vestito davvero era troppo pesante, eh? Si è girato per vedere se lo stavamo a guardare. Ma certo che te stiamo a guardare. Yo! Fac la police, ma folle sans papel. Et la balle con papa, tes chers sans poids basé. La blasé. Sont finiti i tempi del gioco a jouer. Yo! Yo, yo, yo! Samba, samba, samba, samba. No Brasil, sore de samba. Samba, si io to pignata. Nella roulotte mi tocca gamba. Perché? Perché? Mettere in un sasso, mi cogliere un occhio, mettere un sangue, dare un ginocchio. Perché? Allora silenzio. Yo! Silenzio. Yo! Silenzio! Carmignani. No, no. Salvadori, vieni alla lavagna, ci leggi il tuo tema, sì. Sì. Tema, il mio futuro, svolgimento. A volte ci penso a che ne sarà di me quando sarò grande, ma proprio non riesco a darmi una risposta. Nel mio futuro però vorrei che tutto vada un po' più lentamente, perché io mi sono un po' stancato che quando andiamo a fare la spesa con mamma abbiamo solo 10 minuti per riempire il carrello, che se no lei fa tardi a servizio, eppure quando mi portano a giocare a pallone andiamo sempre di corsa, eppure quando vado a giocare a PlayStation da mio cugino, che infatti io per la fretta perdo sempre a Pro Evolution Soccer. E se credo sei una pippa a mongoloide! Carmignani, silenzio. Salvatore continua. Il mio futuro io quindi me lo vedo senza la velocità. Infatti, come dice mio nonno, chi va piano e si allontana. Salvatore, si dice chi va piano, va sano e va lontano. Sei proprio una zappa, Salvatore, a pecoraro! Carmignani, silenzio. E due. Salvatore continua. Inoltre io vorrei che il mio futuro sia un po' meglio del mio passato, perché io mi sono un po' stancato di vedere la faccia sempre arrabbiata di mio padre Agostino, che torna tutto sporco dal lavoro, e il muso lungo di mia madre Anna, che dice che si è stancata di stare in Italia, vuole tornare in Polonia per aprire un ristorante italiano. E Dio se fanno a battere con la salaria insieme alla sorella di Vladoiu! Brutto stronzo, tu non prendi giro mia sorella, eh? A Vlado, ma vaffanculo, va! Carmignani! Chiedi subito scusa a Vladoiu. A Vlado, scusa. Fuori te rompo culo a te, eh? Salvatore continua. E inoltre, nel mio passato c'è anche mia sorella Erika, che non è che siamo mai andati tanto d'accordo, perché lei mi ha sempre parlato poco e quando mi ha parlato mi ha sempre insultato abbastanza. Tutto sommato, però, il mio passato è comunque meglio del mio presente. Perché 5 mesi fa, il giorno della mia prima comunione, alla mia famiglia gli è successa una cosa che da quel momento non siamo più stati gli stessi. Nonno, no? Mi tieni un attimo le paste, per cortesia, non riesco ad aprire. Che hai detto? Se mi tieni le paste che non riesco ad aprire. E speriamo che me le fate pure magnaste paste! Ma sei invitato alla comunione per farmi tenere i guantieri, c'ho fame io! Ah nonno, un attimo di pazienza. Ho detto che si apre la porta, un attimo, no? Guarda se mi tocca fare doppioni a me. Anna, amore, mi passi un attimo le chiavi tu, per cortesia, non riesco ad aprire. Amore, un momento solo, allora adesso io le cerco nella borsa e poi te le do, eh. Nonno, mettieni le pizzette, per favore. Ma che mi avete piato per il carrello? Prima le paste, poi le pizzette, c'ho 90 anni, io! Nonno, un attimo di pazienza! Che hai detto? Niente, no, niente, niente. Anna, per favore, mi dai queste chiavi. Amore, un momento, le sto cercando nella borsa, un momento solo, no? Erika... Scusa, amore di papà, ma perché dai una mano a mamma invece le sta sempre a ciancicare sta Vigorsol? Ah, papà, che palle! Ma com'è che a noi questa solo che palle ci sa di? Poi però i professori a scuola si lamentano sempre di quanto sta a chiacchierare, eh? Lorente magnà tutti i rustici, che ci abbiamo solo quelli. Tra l'altro freddi, fanno schifo, stanno da segatura, non te ne accorgi? Ti sei già magnati? E beh, oggi a lui gli è permesso tutto, no? Oggi è diventato un soldato di Cristo. Sì, maresciallo della Madonna! Ma perché, in senso soldato di Cristo, che la prima comunione? No, che la cresima sei soldato di Cristo, no che la prima comunione! E che la prima comunione che sei? Che cazzo ne so! E non di parolacce che mi sei confessato oggi per la prima volta, no! Allora, mo lo vedi quando non cominci a fare le pippe quante volte te devi confessare? Hai voglia, Padre nostro, Ave Maria! Grazie, grazie. Mi sei sempre d'aiuto te, grazie. Sta porta non s'apre, che vogliamo fa? E perché provi a suonare? E a chi suono? Che la famiglia sta tutta qua. Chi devo suonare? A quelli che stanno dentro, che non la senti la musichetta. Erika, ma che hai lasciato la televisione accesa te? Ah papà, che palle, ho capito. Anna, hai mica lasciato la televisione accesa te? Amore, no. Lore, giuro papà non te fa niente, dimmi che hai lasciato la televisione accesa dentro casa. Eh no, papà. Nonno, sei stato te, eh? Sei uscito di casa e hai lasciato tutto acceso, come al solito. Eh no, eh! Ma allora c'ha ragione nonno. Ma che c'è, gente dentro casa? Quella che nonno chiamava la musichetta, no? Era la sigla di un contenitore sul secondo canale di quelli del pomeriggio. Se stavano a guardare la televisione dentro casa mia, sul divano mio, un clip angiato. Mi ricordo ancora quando l'abbiamo visto all'Ikea, Anna e i bambini l'adoravano quel divano, l'abbiamo preso, caricato in macchina, portato a casa, in 10 minuti era già montato, e la prima sera tutti e 5 stretti stretti su quel divano a guardare Tutti pazzi per amore. Eravamo proprio felici, no? De felicità. E adesso su quel divano ci stavano 5 sconosciuti, ci stavano a sporcare i nostri ricordi belli, no? Mi sono messa a ripensare tutta quella mattina, mi è venuto in mente Lorenzo che la notte non aveva dormito per quanto era emozionato. La chiesa Santa Maria Regina Mundi, che era piena di gente, di bambini, tutti allegri, contenti. Anna, che aveva preparato la casa in rinfresco perché Lorenzo ci teneva a festeggiare con gli zii e i cuginetti. Ma poteva mica essere possibile. Ah nonno, ma sei sicuro? Eh sì, c'è sta gente che parlano! Anna, io vado ai carabinieri. Allora, in data 15-5, il signor Salvatore Agostino, nato a Nettuno, in provincia di Roma, il 7-12-1968, dichiara che... E cosa dichiara, scusi? Come che dichiaro? Come che dichiaro? Dichiaro che oggi, tornando con la mia famiglia a casa, non sono riuscito a entrare, ho messo le chiavi nella toppa, ma la serratura non si apriva più. Ah? E l'avete chiamato un fabbro? No, perché... A volte le porte lo fanno, no? Non si aprono. Uno chiama il fabbro. Certo, di notte costa un po' di più. Ma chi? Il fabbro si fa pagare l'intervento notturno. Scusi, ma di che stiamo a parlare? Del fabbro, no? Ma quale fabbro è fabbro? Le so di che mi hanno occupato casa. Le hanno occupato casa sti caspita di fabbri? Me lo sa dire il nome del fabbro che le ha occupato casa? Oh, ma che ci stanno pure Totò e Peppino dentro sta caserma? Io le sto dicendo che oggi pomeriggio sono tornato con tutta la mia famiglia e non sono riuscito a entrare. Mi hanno occupato casa mia. Siete i carabinieri, dovete fare qualcosa, no? Va bene, ma non si arrabbi, no? Non si arrabbi? Non ci vuole dire il nome di chi le ha occupato casa? Ma se io lo sapevo, già gliel'avevo detto. No, non le pare? Le ripeto per l'ennesima volta che oggi sono tornato a casa mia, non sono riuscito a entrare, mi hanno proprio cambiato la serratura. Ah? E secondo lei, chi gliel'ha cambiata la serratura? Non lo so, che ne so, avranno chiamato un fabbro. E vedi che come dicevo io... Non ho capito, scusi, che ha detto? No, niente, niente. No, l'ho sentita, se me lo ripete adesso. Ho detto che come dicevo io, no, che il fabbro c'entra e come? Senta, senta. Allora, io da poco abito ai palazzoni in fondo a sta strada. Le ripeto per l'ennesima volta che oggi pomeriggio sono tornato con tutta la mia famiglia e non sono riuscito ad entrare, mi hanno occupato casa. Pago regolare affitto, vorrei capire se ho dei diritti oppure no. Va bene, ma non si arrabbi, no, si sieda. Bravo, mi faccia vedere il contratto di locazione. Il contratto d'affitto ce l'ha? No, non ce l'ha nessuno qua. Perché? Sono Salvadori. Io le voglio anche credere, no? Ma mi dica almeno a chi lo paga lei questo affitto? A Macchiusi, il proprietario di casa. Ma perché? Ma è sicuro? Sicuro che questo Macchiusi sia davvero il proprietario di casa? Ma che vuol dire che non c'hai in mano l'atto? E vuol dire che tecnicamente io non sono il padrone di casa. No? E chi è il padrone di casa, Macchiù? E io che ne so, queste case sono state assegnate nel 73. E beh, dimmi allora chi è stata assegnata a sta casa? A un certo signor Calò, ma con lui non ci può parlare perché è schiattato, senza reti. La casa l'hanno occupata in casa Monica. Per una decina d'anni ci hanno tenuto le padelle per le calde arroste, poi a un certo punto si è infilata dentro una zecca. Un comunista de merda che spaccava il fumo ai ragazzini per giorno, sai Damiani che ha fatto? L'ha preso, l'ha gonfiato de botte, l'ha mandato all'ospedale mentre quello stava al CTO gli si è infilato dentro casa. Povero Damiani, me lo ricordo ancora d'estate, che faceva a turno con la moglie per portare i ragazzini a Santa Severa e non lasciare la casa incustodita, no come te Agostino, come te. Se lascia una casa occupata, senza nessuno dentro a fare la guardia. Ma io non l'ho occupata sta casa, io ti pagavo un affitto a te. E te come sei entrato? Io mi sono scopato la moglie di Damiani. Poi un bel giorno quella se n'è tornata in Ucraina, io sono rimasto dentro, no? Perché Damiani non t'ha detto niente. E che mi doveva di? Che mi doveva di? Quel coglione, pensa che la moglie ha lasciato la casa vuota, io me la so affittata a te, no? Quindi te mi hai affittato una casa, che non era tua e manco di Damiani. Ma costi sta casa, e di chi se la piglia? Eh no, ma chi qua te sbagli, perché sta casa adesso è mia, io me la voglio riprendere. E allora questi... Te devi rivolgere a un paio d'amici miei. Ti fanno un lavoretto pulito. Non se ne accorge nessuno. Perché è evidente che te da solo, questi... Non ce la farai mai. Nella vita siamo soli. Uno da piccolo fa finta di niente perché papà ti compra le figurine, mamma ti fa la frittata, ma poi quando diventi maggiorenne non puoi mica più far finta, sei proprio solo dentro. Nonostante il lavoro, i mogli, i figli, sei proprio solo. Allora cerchi di riempirti la vita per non pensarci, ma appena invece c'hai un momento per pensarci sta quel mostro dentro che ti si magna vivo. Ti strizza lo stomaco con l'artigli, ti insulta, ti umilia e ti riduce in pizzico. Allora cerchi solidarietà negli altri uomini soli, ma i soli, quelli veri, sono pure cattivi oltre che essere soli. Ci si inzuppano il pane nella solitudine, non ti danno una mano manco morti. O perlomeno magari fanno finta di dartela, ma sta sicuro che alla fine cercano solo dei fregatte, perché i soli conclamati sono marci dentro, si portano appresso un'infanzia infelice. Due genitori che nessuno gli ha mai insegnato a fare genitori. Una voglia d'abbracci, dei baci, dei coccole. Ne ho conosciute tante in questi mesi io di persone sole. E stronze. Perché più sei solo e più diventi stronzo. E più diventi stronzo e più rimani solo. È proprio una... C'è rosichi di isolamento, capito? Quando sei solo nel profondo ti nervosisci al primo bacio che vedi in televisione, vorresti vedere tutti divorziati, tutti brutti, tutti zoppi. Se al semaforo ti affianca una macchina, un signore dentro ti sorride, te lo vorresti ammazzare. Ma che te ridi? Ma sarà mica felice questo? Ma come, sei solo pure tu? No? E allora devi morire. E uno dei momenti peggiori per un uomo solo sono tipo le feste comandate, no? Quando tutti scartano i regali, tu sei l'ultimo sopravvissuto sul pianeta Terra, allora si avvicinano magari una zia, un cuginetto a cui hai appena regalato una cinta, si avvicinano con sta cinta in mano, ti ringraziano, grazie, grazie tanto, mi serviva proprio, ma tu non li senti. Non li senti come non senti tanti auguri a te che te cantano davanti a una torta mimosa con le candeline sopra, mentre lo zio ti fa una foto, una di quelle foto, che poi quando la vai a riguardare senti ancora più solo di prima. Non ti puoi attaccare a niente quando ti strappi di dolore per la solitudine, non c'è sta Dio. Non c'è Buddha, non c'è psicologo, non ci stanno libri, amici, parenti, canzoni. Non c'è sta niente di niente. Yo! Yo! C'è se mangiano l'anima, il cielo è in coma sulla città, ma hanno ingabbiato come animal sotto lo sguardo dell'endemol. Yo! Yo! Toma! Un porro chiquito, il perro e vario ha matato Carlito. Parla come magni che non ho capito. Bass, bass, drum and bass, chicken face, erba de grace. A Piazza de Spagna me sento Scarface. Ho scoperto su Facebook, fuck in inglese se scrive fuck. Yo, yo. E ancora c'è chi balla e muove la colita. Io sto fermo che c'ho il caro vita. Vado lento come un diesel, me guardo il filco Vin Diesel, Mel Gibson, Armageddon. E le campane fanno din don. No per le cresime, no per le spose, un caro amico è morto de overdose. Sesso rose fioriranno, ma tanto me bocciano pure quest'anno. Yo, yo. Non mi chiede niente, tanto nulla so. Professor, quella sera, la prima sera, siamo andati tutti quanti a dormire a casa dei miei zii che si chiamano Enzo e Serena. E siccome loro sono già in quattro e stanno in 30 metri quadri e mia zia è anche incinta del mio cuginetto che poi adesso è nato, a parte nonno che ha dormito nel lettone con zia e zio, noi abbiamo dormito nel bagno, mamma America nella vasca, papà seduto sulla tazza e io appoggiato al bidet. Poi però a un certo punto, siccome lo sciacquone perdeva, papà si è innervosito delle gocce che gli cadevano sulla testa ed è uscito dal bagno bestemmiando, tutto bagnato. E il segreto dormivate in un cesso, a baraccati! Allora, Carmignani, vai fuori! E no, ma stava a scherzare! E scherzo su sto cazzo, Carmignani! A rumeno di merda, ma che vuoi? Vuoi vedere come spacco tuo culo io a te? Ma imparate l'italiana Dracula, tornate alla terra tua a mangiare i sorci! Allora... Ricci, Carmignani e Vladoiu, fuori tutti e tre, fuori, fuori, fuori, dovete uscire, questa è casa mia, su Agostino, fatevi vedere, sorci, almeno aprite la porta, no, fatevi vedere, fuori, voi non avete capito con chi avete a che fare, io vi faccio sparare, merde, uscite da qua, oh, fuori, dovete uscire, oh. Ammazza! Che è sto casino? Che stai a fa'? Chi sei? Che vuoi? Come che voglio? Questa è casa mia, ve ne dovete andare! Sei. E che te serve? Come che mi serve? Mi serve la roba mia, voglio il letto mio, voglio la roba mia, la voglio tutta e la voglio subito. E voglio. Ma tu mi riderai. Ma che mi sta pure a piar per culo? Apri sta porta, ve ne dovete andà. E perché? E dove sta scritto? Che sei il padrone di casa, te? Vabbè, allora io vado dai carabinieri, il tempo di due giorni le faccio cacciare. E ma se mi cacciano a me... Ti cacciano pure a te, eh? Mica è tua sta casa. Ma poi secondo te le guardie vengono a perdere tempo qua giù? Quelli stanno al centro a fare le multe, mica ci vengono a perdere tempo qua. Dammi retta, vattene a dormire, che è meglio. E dove vado a dormire che mi hanno messo dentro in cesso? E se vede che tu lo meritavi? Apri sta porta, apri. Te faccio passare la voglia di scherzare, apri. Guarda, allora facciamo così, va. Te torni domani. Te faccio trovare tutta la roba tua sul pianerottolo, vabbè. Mo fammene annà che voglio andare a sentire Bruno Vespa, che dice che c'è crisi, c'è paura, non c'è più sicurezza. Oh, ma ditemi almeno quanti siete là dietro, mica me lascerete qua così. Guarda, pa' adesso una decina, domani chi lo sa. E così il giorno dopo. E Anna siamo tornati a casa, abbiamo trovato la nostra roba sul pianerottolo, c'erano i vestiti, i libri di scuola dei bambini, le posate, i giocattoli, c'era tutto, quasi tutto. Poi a un certo punto si è aperta la porta del mio vicino di casa, Ahmed, un egiziano che c'ha una pizzeria al taglio, all'alberone, dice sempre «Fomo a capisci, frate». E adesso per la prima volta mi guardava strano, c'aveva paura di me, capito? Aveva paura che io per disperazione gli potessi fare la stessa cosa, che io gli potessi occupare a casa. Mi ha detto che gli infami che stanno dentro casa mia si chiamano Alida e Tonino Rizzuti. Hanno due figli e non escono mai tutti e quattro insieme. Poi per strada ho rincontrato Macchiusi. Mi si è rifatto sotto con la proposta. Questi fatte furbo, te non mi vuoi dare retta. L'unico modo che c'hai di rientrare dentro casa tua è rivolgerti a sti due amici miei. Gli tirano una botta alle gambe e chi si è visto, se levamo ste zecche dalle palle una volta per tutte, no. Ah, ma chiù, mica voglio finire in galera io, No. E allora però non te devi lamentare se questi si fanno il bagno dentro la vasca tua, Io veramente non ce l'ho mai avuta la vasca. Ci facevamo la doccia noi. Agosti, ti è mai stufato? Te mai stufato? Mi hai detto che vuoi rientrare dentro casa. Ti ho detto come devi fare. Non mi vuoi dare retta, allora non mi devi più rompere i coglioni, capito? Non ti devi più far vedi. Mo fammene andare, va che. Devo portarmi figlio in palestra. Che rachidi con quest'altro coglione. Scusami, Macchio, scusa, io non te volevo far nervosì, scusa. Scusami. Signor Salvatori, per cortesia può portare i miei saluti a Erika? Ma certo, Andrea, certo che gli riporto, certo. Scusami ancora, Macchio. Scusami tanto. Ciottoli per rompere le teste, alberi per cogliere la peste, il cielo si è scucito la sua giacca, sulla lamiera della grande baracca la baldracca leva i figli come un crampo, il tempo è un lampo che non lascia scampo, se ti prende ti cancella dalla festa. Però ti toglie pure il mal di testa. Urlano la notte come iene, di giorno dicono va tutto bene. La regina Elisabetta ha un topolino che la morde quando gioca a nascondino. Mustafa tutto d'oro alla dentiera, ogni dente 7 anni di galera. È un posto che è meglio se non c'era. Aspetta e spera, terra sempre nera. Piano. Papà, ma io ho paura. Paura? Tenge deve avere paura. Te ti chiami Andrea Macchiusi, i Macchiusi non ci hanno mai avuto paura di niente e di nessuno. Papà, e che a dirla tutta a me non mi sembra giusta questa cosa. Ma non è giusta? Brutto cretino, idiota, testa di cazzo, che capisci una mazza, non è giusta? No, dicevo nel senso che... Che senso? Che dici? Che te devo menare? Ma non lo vedi che questi vengono a rubare a casa nostra? Non te ne accorgi di come stuprano, ammazzano e delinguono? Sì, papà, però... Però che fessù? Quando pensi di reagire? Quando hanno ammazzato tuo padre? Quando hanno violentato tua madre? Gli vuoi apparecchiare il culo per fare lo scalavento da dentro? No, papà. E allora zitto, zitto. Gliele dobbiamo bruciare le baracche a sti zozzi infami. Devono ardere tra le fiamme dell'inferno ste merde. Se ne devono tornare in Rumenia. Ma lo sai che cosa fanno questi in Rumenia? Questi fanno riti voodoo. Se mangiano braccia dei topi, cuori di trota, unghie di cavallo, mischiano tutto, se lo bevono e si drogano di sta monnezza. E più cattivi, ce li mandano qua a commettere i reati. Ricordate sempre che questi erano comunisti. E poi si sono pentiti. Comunisti, pentiti. Papà, ma quelli ci sono anche in Italia però. Sì, ma sono italiani. Dico, io adesso si fa tutta sinonia sul fatto che si diceva che era assurdo che i comunisti si mangiavano i bambini. Ma se sta voce è girata, a fondo di verità ci sarà stato. Magari se mangiavano i bambini, se mangiavano i vecchi. Poi col tempo, col passaparola, i vecchi sono diventati bambini, ma qualcuno se lo sono mangiato, però. Papà, ma i rumeni non sono cannibali. No. E chi sono i più cattivi a scuola tua? Quelli che terrorizzano tutte le ricreazioni. Sono rumeni, papà. Ma che te devo ricordare che ti hanno fatto a Natale? T'hanno tenuto un cinque e t'hanno disegnato un cazzo a pennarello sulla fronte. Tua madre ci ha messo una settimana a levartelo con lo spirito. I macchiusi non l'avevano mai subita, non da così. Che altro ti devono fa? Ti devono usare come straccio per pulire per terra. No, papà, no. E allora zitto. State zitto. E passamelo zippo. Aspetta, papà, aspetta. I rumeni di scuola mia non vivono in un campo rom. Una cosa sono i rumeni e una cosa sono i rom. So comunque zingari. Delinguono. Adesso state zitto e passami lo zippo. Aspetta, papà, aspetta, aspetta. E se ci sono dei bambini? E beh, questa volta almeno si rimangeranno cotti. Sbagliato. Chi c'ha torto, chi c'ha ragione. E uno soprattutto come fa a capirlo? Io con chi me la devo via? Con Macchiusi, con gli infami che stanno dentro casa mia, coi carabinieri, con lo Stato. Sono pure stato da un avvocato, mi ha detto che non si può fare niente, che la legge non ammette ignoranza, che io lo dovevo sapere che sta casa era occupata e che anzi era meglio che mi tenessi lontano dalle aule di giustizia perché potevo pure passare i guai. Allora sono tornato su quel pianerottolo. E mi sono attaccato al campanello di casa. Fino a che finalmente non si è aperto uno spiraglio di porta e l'ho visti. Tutti e quattro. Per prima c'era Alida Rizzuti, una donna brutta, volgare, con le pantofole di mia moglie. Accanto a lei c'era Tonino, quello con cui mi sono attaccato l'altro giorno. Sul fondo, seduto a un tavolo, un bambino, ciccione, che si stava mangiando la torta di Lorenzo, quella che Anna aveva fatto per la prima comunione, no? E poi tra l'altro ormai era pure andata male, solo che niente, quello se la mangiava come se niente fosse. E accanto a lui un ragazzino in canotta di 20 anni, con la faccia tutta incazzata e un enorme tatuaggio sulla spalla, con un guerriero vichingo che se incula un drago. E quando ci tiri fuori da qua, ma cosa chiami l'esercito a poraccio? Mi ridono in faccia, richiudono la porta e si barricano dentro. Io ero venuto solamente per parlare, Ero venuto per cercare un dialogo, per farvi capire che io non c'entro con questa storia, no? Vabbè, ve la siete cercata voi adesso. Enzo, Enzi, ascoltami bene, io ho preso una decisione. Non posso continuare a far dormire la mia famiglia dentro un bagno. Guarda che se è per lo sciacquone domani lo faccio riparare. No, Enzi, non è per lo sciacquone, quello fa il suo mestiere, deve gocciolare ogni tanto. No, non è per quello, no, è che noi... Siamo piombati a casa, voi giustamente state già stretti così. è per l'attacco dei colite di stanotte. E lo so, non deve essere stato bello per i bambini, ma che dovevo fare? Non ce la facevo più. E sì, non è neanche per quello, no, no. È che proprio non si può continuare a dormire in trancesso, lo capisci? È una questione di dignità. E lo capisco, sì, lo capisco. Non può essere che se uno di noi la notte deve andare al bagno, tutti gli altri sono costretti a svegliarsi e uscì, no? No, infatti no. E allora basta, sì, basta. Io la mia decisione l'ho presa, ti ringrazio, Grazie per la mano che mi hai dato, grazie per l'ospitalità, ma la decisione è presa, da domani si comincia a combattere. E beh, se può sapere che è surgenza di fare questa riunione di famiglia proprio a quest'ora? No, no, ma no. Allora, io ho preso una decisione. Voi vi siete stufati di dormire dentro un bagno, no? Ammazza come sei intuitivo! E siccome mi sono stufato pure io, in una casa dove andare a dormire non ce l'abbiamo, ho pensato a una soluzione per affrontare il problema. Te dico subito che io in macchina non ci dormo, No, no, se mi fai finire di parlare. Se tu pensi che all'età mia mi metta a dormire dentro la macchina, ti attacchi proprio che al cornicione del cazzo, c'ho 90 anni io! Nonno, se mi fai finire di parlare, anche perché era punto sgangherare c'ha 6.000 spifferi! Ah nonno, non l'ho mai detto di dormire dentro la macchina, basta, ma che ci senti? Scusa. Scusa, nonno. Questi stanno dentro casa nostra indisturbati. Sono piombati nelle nostre vite, devastandole. Secondo te che dobbiamo fare? No, so. No, so. La vita mia mi era mai successo. Sono passato andando per Mussolini, per Andreotti, per Berlusconi. Mi hanno tirato sotto la macchina, mi hanno pure levato l'appendicite. Per 50 anni ho sopportato quella spacca cazzi di tua nonna, ma me la casa. Me l'avevano mai rubata. E lo so, nonno, lo so. Per questo ho pensato a una soluzione per affrontare il problema. Eppure io, se mi rimetti il fucile a canne mozza gli vado a spararsi, infami! Tanta l'età che c'ho, me ce metto, non galera! Mi mettono a fare lavori socialmente utili! Se a Pip che l'hanno messa a lavorare da un avvocato, a me come minimo mi mettono a fare il portaborse del ministro delle pari opportunità! Me levo lo sfizio e la faccio franca, dai, no! Era un po' meno estrema e soprattutto era l'unica che ci consentiva di rimanere tutti insieme. Quel giorno abbiamo deciso di occupare l'unico spazio che ci poteva ospitare tutti e cinque, il pianerottolo di casa nostra. Siamo arrivati alle 4 di mattina, abbiamo sistemato i sacchi a pelo dentro la tenda di Enzo, nel vano ascensore che tanto era in disuso ci ho accroccato un bagno e Anna ha allestito una zona spogliatoio dove lei e Erika si potevano cambiare senza essere viste. All'inizio non è stato facile, Quel palazzone c'ha 13 piani, c'è sempre chiavai di gente, dalla mattina alla sera, pure dei cani, dei gatti, dei sorci. Chi si affacciava, chi rideva, chi ci insultava. Poi però, piano piano, qualcuno ha cominciato a darci una mano, tipo la moglie di Ahmed, che si è offerta di tenerci le nostre cose in frigo, così almeno non eravamo più costretti a comprare latte a lunga conservazione, per esempio, che proprio non si può bere per quanto fa schifo, no? Ma avevano occupato casa. Io gli avevo occupato il pianerottolo. Amici del palazzo, fratelli di periferia, lo so, non deve essere facile per voi vederci qua accampati su sto pianerottolo, ma cercate di capire. È l'unico modo che abbiamo per reagire a sti mascalzoni che ci hanno occupato casa. Se mi date una mano, anche piccolo aiuto, io sono convinto che riesco a far giustizia e a cacciare sti usurpatori. Ti vide una mignotta! Adesso di che cominciamo a darvi fastidio! Siamo qua a cagare per cazzo! Ah nonno, ma è possibile che sei di una frase senza di una parolaccia? E che te devo dire? Mi piaci! Ho capito che ti piace, ma così è maleducazione, no? Notte e giorno vediamo passaggente di tutte le razze, Se mi avessero congelato a 12 anni e risvegliato adesso mi sarebbe preso un colpo, avrei pensato che eravamo stati invasi dal Congo. Non avrei visto manco una faccia bianca. A scuola De Lorenzo, per esempio, no? Sono quasi tutti extracomunitari, in classe sua sono 21, italiani solo 3. La preside dice che la scuola non è neanche a norma perché per legge in una classe almeno il 70% degli studenti devono essere italiani e allora fanno i travasi, se vanno a mandare bambini italiani dagli altri quartieri e pagano pure il pulmino. Eppure il quartiere è così, Ci stanno certe strade che sembra di stare in un altro continente. Poi, per carità, io non sono razzista, sono pieno di amici e dei colleghi, egiziani, rumeni, marocchini. Mia moglie è polacca, quindi figuriamoci. Però ci sono delle situazioni dove uno non sa come. Per esempio nel palazzo mio, no? C'è sempre una puzza di aglio, di cipolla, che uno proprio non sa come. Perché ci stanno quei 30 del Bangladesh che cucinano a rotta di collo, notte e giorno. Allora, noi non gli abbiamo mai detto niente, perché... Però, tipo, la mattina, quando io mi sveglio per fare il caffè, poi mi viene da vomitare. Poi, per carità, sono lavoratori. Come me. No, come Rizzuti. I Rizzuti non facevano un cazzo. La famiglia Rizzuti ci rideva in faccia ogni volta che usciva di casa. Come diceva nonno, cornuti e ammazzati. Papadori... Si dice cornuti e mazziati. Sei proprio una merda, Salvatò! Allora, Carmignani, vai fuori! Ma che de nuovo? Sì, e questa volta ci resti per tutta la lezione, vai fuori. Bravo, Carmignani. Salvatò, continua. E quindi, non solo ci avevano occupato casa, ma col tempo erano diventati anche prepotenti. Soprattutto il figlio di 20 anni metteva paura e pensavo che prima o poi papà ci poteva finire a botte. Ma il peggiore di tutti era Tonino Rizzuti. E col passare del tempo ha incominciato a insospettire papà. Certe volte usciva la sera dopo cena e tornava solamente a notte fonda. Allora una notte papà e nonno hanno deciso di seguirlo. Ah no, va piano nonno. Guarda la strada e va piano, capito? Fa attenzione, ecco, ha svoltato per la Prenestina, seguilo, va. Secondo me stanno a mignotte. Ma che dici, nonno? Quello c'ha qualche traffico losco, roba di fumo, di coca, te lo dico io. Sarà, ma io vedo che quando si avvicina alle stradaiole gli si allunga il collo come una giraffa. Secondo me quello c'ha l'ormone a palla, te lo dico io. In effetti, guarda quella che carrozzeria, pare maggiolone, oh, bella. Quanto vuoi per levarmi lo sfizio? Per te ci vuole molto, nonno. Nonno, parte giù, voli via qua che ti faccio vedere la bagliaffa, lo vediamo se mi continui a chiamare nonno. Ma nonno, ma te pare. E vabbè, stava a fare un po' di ironia con queste amiche brasiliane. Ma perché pensi a guidare, ha svoltato per la casilina? Allora non stanno a mignotti, stanno a trans. Ma che dici, ma che è davvero? Si è fermato? Ce la sta a caricare. E mo che famo? E che vuoi fare? Che te la puoi caricare pure te? Le seguiamo, gli facciamo le foto, poi le facciamo vedere alla moglie, così lo vediamo se continua a ridere, st'infame! Signora Lida! Signora Lida! Se ci apre un momento dovremo farle vedere una cosa! Che volete andare via? A vecchia ciabatta! E mica siamo venuti a vendere il folletto! Apri che te vogliamo far vedere una cosa! Ma nonno, ma se ti ho detto di essere gentili, ma così che risolviamo noi due? Signora Lida! Signora Lida! Ci perdoni? Siamo un po' nervosi, lo capirà, con quello che ci è successo, no? Però se oggi siamo davanti a questa porta è per farle vedere una cosa importante. Guardi che alla fine ci ringrazierà! Io non ve apro, andate via! Vabbè, io allora gliela faccio vedere da qua. La vede sta foto? Ecco, nella foto c'è suo marito Tonino in macchina con un travestito e contrariamente a quello che si può pensare è lui quello che sta sotto. Allora, per prima cosa, Tonino non è mio marito ma mio fratello. Mio marito, grazie a Dio, è morto 10 anni fa. E secondo, saranno pure affari suoi, no? Straccioni! Perché io ci avevo proprio creduto. Però non mi sono perso d'animo e mi sono rivolto alle istituzioni. Signor sindaco, io mi sono informato, quello che è successo a me succede tutti i giorni in molte città d'Italia. La gente è disperata perché una casa non se la può più permettere. Io tutto quello che chiedo è solo di poter avere casa mia o perlomeno un posto dignitoso dove io e la mia famiglia possiamo stare nel frattempo. È una settimana che sto qua sotto accampato per strada, ancora non sono riuscito a parlarle. Sì, gli assessori, quegli altri che sono venuti, sono stati tanto gentili, mi hanno riempito le pacche sulle spalle. Uno mi ha pure offerto una Vigorsol senza zucchero, ma io con la gentilezza non ce magno. E nella Vigorsol era meglio se c'è stava lo zucchero. Non è servito a niente neanche questo. E allora quando le istituzioni non ti aiutano, finisce che ti rivolgi a chi gli sta contro. Agostì, te sei convinto? No, ma chiù, no. Non sono convinto manco per niente. Volevo solo capire quanto mi venivano a costare sti due amici tuoi. E dipende, dipende. Che gli volemo fare? Gli volemo gambizzare? Gli vuoi solo menare? Gli vuoi far ride dentro casa? Gli volemo stuprare la femmina? Ah, ma chiù, ma che stai a dì? Ma che stai a dì? Io voglio solo che si facciano venire un'idea per cacciarli fuori di casa. Così me la riprendo e stiamo bene così. Ah. E come pensi che si può fare, Agostino? Volemo chiedere per cortesia che per favore ve ne uscite fuori da sta casa che Agostino Porello gli sta piando l'esaurimento nervoso. No, lo capisco, non si può fare così, no. Però niente violenza. E soprattutto non sulla donna e sul bambino. Agostino, te sei troppo buono. Te inzai vive. Ricordate sempre che nella vita, quando lo scarafaggio zumbetta, bisogna acciaccarlo! E quanto mi costa a me acciaccare sto scarafaggio? 5.000 all'ora e 1.000 a me. Ma che, Davide, chi ce l'ha? Agostino, ma non c'è sta problema. Io ti presento un amico mio che te li imbresta e tu glieli ridai piano piano con po' di interessi. È fidato, è ingammerata. E no, è in cravattaro. E comunque a me 6.000 euro mi pagano davvero troppi, no? Agostino, ma tu ti puoi mangiare caviale con le forchette di plastica? Che vuoi che siano 6.000 euro in confronto a casa tua? È quello che guadagno in 6 mesi. Ebbene, chi è la colpa? È tu che mi hai affittato casa che era terra di nessuno. Agostino mio, quanto risentimento, Che paura che mi hai messa, Agostino. O sai qual è il tuo problema, Agostino? Che quando ti arrabbi non ci crede nessuno. Perché te, Agostino, proprio non ce l'hai i coglioni per reagire. Mo fammene annava, ma fa più perdere tempo. Ora Chuck Norris, sex for his Io non so più che pesci prende. Mia moglie mi parla a malapena. Mia figlia non mangia più. Lorenzo non mi dorme la notte. Io sono quasi ridotto sul lastrico. Mi serve una soluzione decisiva, un aiuto concreto. Che devo fare? Agostino caro, io adesso ti dirò una cosa che ti sembrerà banale, ma in cui ti esorto a credere con tutte le tue forze. Tu mi hai chiesto cosa devi fare. Io ti rispondo: pregare! Tutto qua? E ti pare poco? E mi pare poco, sì. Mi pare proprio poco poco a me. Mi pare pochissimo, padre tu. Ma come, tutta la mia vita, ogni volta che c'era una difficoltà mi dicevano che mi dovevo mettere in ginocchio a pregare. Quando è morto mio padre, c'avevo 13 anni, mi hanno messo a pregare per un mese di seguito, ho pregato talmente tanto che 3 anni dopo è morta pure mia madre. E se non smettevo mi giocavo pure mio nonno a rota. Ho smesso. Se però mi rimettete una casa, io giuro pago pegno, Mi rimetto a dire Padre Nostro e Ave Maria fino a che non mi sanguina la lingua, perché è una vita, padre Duccio, che io sto in ginocchio. È una vita che do tutto. Ed è una vita che non ricevo niente. Ho letto sul giornale che il Vaticano c'ha un sacco di case a Roma che affitta per poche lire a gente importante, ma non è che tante volte ve ne è rimasta una sfitta, pure brutta, la più piccola di tutte, me basta un box, me lo pio io. Poi prego. In giro giran tutti a pecorone, sotto i precetti della madre chiesa, in fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Qualcuno grida solo per la via, fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti, l'oruculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera. Sono stato in comune, ho preso la piantina dello stabile con disegnate tutte le porte d'accesso secondarie, i percorsi delle tubature, la griglia, dei balconi e dei terrazzi. Ci sono solamente tre modi per entrare dentro casa mia: la porta d'accesso principale, la finestra che dà sul piazzale e quella che dà sul cortile interno con accanto la scala antincendio. E la notte ho fatto il matto. Mi sono arrampicato su quella scala e sono entrato dentro casa dalla finestra. Dormivano tutti a casa Rizzuti, a casa mia. Appena entrato, ho urtato in un mobiletto basso che non c'era mai stato. Avevano cambiato tutto l'arredamento. Ai muri non c'erano più i nostri quadri, le nostre foto. C'erano le foto di due che si sposavano, ma io non l'avevo mai visti. Sul comò non c'erano più gli animaletti di Erika, i soldatini di Lorenzo. C'erano certi pupazzetti strani che mi guardavano come a dire: che cazzo voi? Ma pure loro. Allora mi è venuto un groppo alla gola e sono dovuto uscire. Sono tornato sul pianerottolo e mi sono messo a piagne, piano, per non svegliare nessuno. Quella mattina papà era super nervoso e ha fatto una sfuriata prendendosela con tutti noi che non c'entravamo niente. Allora mamma ha preso tutte le nostre cose e ci ha portato via, a me e a Erika. Anna, ma che stai a fare? Anna, aspetta, dammi ancora un po' di fiducia, io la risolvo questa situazione, Anna mia. Anna, aspetta, non ti portare via i bambini, no, mi lasci qua così da solo con nonno. Anna, Anna, vabbè, vattene, vattene, vattene, Anna, non tornare però, vattene, Anna, vattene, vattene via, Anna, vattene! Abbiamo lasciato da soli papà e nonno sul pianerottolo. Nonno. Ah no. Senti qua. Stanotte ho volato, nonno. Stavo sull'Olimpica, no? All'altezza della Salaria. Dopo il benzinaio, un po' prima dello sfascio, a un certo punto è arrivata la nebbia e non ci ho visto più. La nebbia è entrata in macchina, non si vedeva più manco il volante, era tutto bianco. Un secondo dopo stavo in cielo, nonno. Volavo con la punta mia, in mezzo alla nebbia. Faceva giusto un po' di freddo, ma manco tanto. Poi in lontananza ho visto delle lucette rosse. Erano aerei, nonno. Io ho volato in mezzo agli aerei e stavo bene. Hai capito, no? Nonno, hai capito? Ho capito così. Ho capito che sei stanco. Non mettere a dormire che è meglio che prima o poi, costi quel che costi. Noi se la ripiamo casa nostra. Il Grand Hotel del pianerottolo è un veliero. Si sta qua dentro naufragando per metà. L'altra mezza l'ho nascosta nel soppalco. Non vede l'ora, deve vederci ritornare. Amore mio, ho deluso tutti quanti e quanti muri ho colorato di pittura. Ma adesso che sto buio viene avanti, io non lo trovo un colore che mi cura. Figlia mia, t'abbraccio forte, forte, a volte la vita fa paura. Al mondo ci sono tante, tante porte, ma per quelli come noi sono tutte chiuse con la serratura. Lorenzo, scusa, sono fallito. V'ho buttato tutti dentro a sto casino. Papà, state zitto, stammi vicino. Tu sei il più forte, tu sei Agostino. Papà sembrava impazzito. Pensava tutto il giorno a dei piani per entrare dentro casa. Enzo, Enzi, senti qua. Senti, allora, tu prendi in prestito una sirena dell'ambulanza, l'azioni a tutto volume nella tromba delle scale, io do fuoco a dei cartoni, simuliamo un incendio, così quelli se cagano sotto, escono di casa e noi entriamo. Che dici, nonno? Dico che furto di sirena, incendio doloso e tentata strage, secondo me ci mettono in galera e buttano la chiave. Allora simuliamo una finta rissa tra i rumeni del sesto piano e il Bangladesh del quarto. E quando ci credono, quelli stanno sempre a lavorare! Ho capito, nonno, però tu così me le stronchi tutte, no? Fio mio, fino a quando continui a partorire stronzate! Papà cominciava a perdere fiducia in se stesso. Si dimenticava di farsi la barba, non mangiava più. Certe volte mi affacciavo alla finestra di casa di zio, lo trovavo sotto per strada appoggiato al lampione, che ci salutava. Lore? Lore! Ma mamma proprio non lo voleva vedere. Poi però un giorno a papà finalmente gli è venuta l'idea giusta. Enzo, nonno, venite un po' qua. Allora, io ho seguito tutti i loro spostamenti, no? Secondo me il giorno migliore è il venerdì dalle 6 alle 7, perché allora la signora Lida va a servizio da una tizia sulla Cassia, il tatuato se ne va in palestra, dentro casa rimangono solamente il bambino Ciccione e Tonino, basta agire sui loro punti deboli, li facciamo uscire. E come lo fai uscire a quello pezzo solo a magnà? Erika, nonno, Erika, che non l'hai visto come la guarda, lo facciamo invitare da Erika, ti va a mangiare un gelato. E Tonino? Qual è il punto debole di Tonino, no? E io che ne so, che io conosco a quello? E no, proprio te lo conosci, invece, meglio di tutti noi qua. E così quella sera papà è stato sulla casilina a parlare con una certa Malù, o un certo Malù, insomma mi pare brutto dirlo, ma è un trans brasiliano. Lo conoscevo, pare Ronaldinho, fai colpi del tacco col pisello. Allora, Picchi e Carmignani, ma chi vi ha detto di rientrare a voi due? Ah, ma vogliamo solo sapere come va a finire. In silenzio però, in silenzio. Salvatore, continua. Papà allora ha dato dei soldi a questa Malù per farsi aiutare. E il giorno dopo era venerdì, il momento della verità. Alle 6 di pomeriggio la squadra era schierata al gran completo. Al piano di sopra c'era zio Enzo, al piano di sotto papà e nonno, e davanti alla porta di casa Erika. Nonno, no? Ascoltami, no? Ma proprio devi sta zitto, capito? Devi far silenzio, non parlare. Io veramente non ho detto una parola, c'ho solo un respiro pesante. Ecco, allora non respira. E così me moro. Zitto, nonno, zitto. Ti ha bussato? Se lo sta a portare giù. Erika, sei riuscita. Enzo mio, Enzo, fa scende Malù. Adesso, Enzi, è il momento, fa scende Malù. Nonno, mo veramente devi dire una parola, eh? Tranquillo, mi metto una busta di plastica in testa così spiro lentamente li mortacci tua. Ah, nonno, zitto. Eccola. Ammazza. Che è? Zitto, nonno. Zitto un cazzo, che è? Voglio vedere. Ma con quella vestaglietta trasparente gli si intravede tutto il pacco. E a Tonino quello, gli piace. Gli ha bussato. Zitto, nonno, che gli ha aperto. Scusa, signor. Mio lavandino è impazzito. Schissa acqua da tutte le parti, sono tutta bagnata. Te prego, aiuto. Ma chi sei, te? Che vuoi? Come sei arrivata qua? Io sono in Malù. La nuova inquilina del piano del sotto, te prego, aiuto. Ma io te posso aiutare? Non si può uscire. Se può lasciare la casa incustodita. Ti prego, dai. Tu fai cosa per me. Io faccio cosa per te, va bene? E va bene. Allora aspetta un attimo. Mi metto una cosa addosso. Mo arrivo. E quella è stata la prima volta dopo tanto tempo che la casa rimaneva vuota. Papà non ci ha capito più niente. Poi ha preso il telefono, ha chiamato zio Enzo. Enzo! Adesso, Enzi! Devi scendere, Enzo! Ora, Enzo! Allora, zio Enzo si è buttato giù per le scale. È arrivato davanti alla porta di casa, ha tirato fuori gli arnesi per aprire la serratura. Sbrigati, Enzi! Sbrigati, Enzino mio! E proprio in quel momento papà si è trovato davanti Tonino Rizzuti, che era sceso con Malù. Si sono guardati negli occhi per qualche secondo. Sembrava un film western. Poi papà ha fatto una cosa strana. Ha allargato le braccia. Ha piegato un po' la testa indietro. E gli ha tirato una capocciata fortissima! Bravo! Bravo Agostino! Bravo! Bravo Agostino! Mi piace questo Agostino! Silenzio ragazzi, e silenzio, Salvatore, continua! Allora papà da sotto ha sentito la porta di casa che si apriva, ha scavalcato Tonino che rascolava per terra, ha fatto gli scalini 4 a 4, ha attraversato il pianerottolo ed è arrivato davanti alla porta di casa. Chiusa? Enzo! Enzo! Sono Agostino! Enzo! Ci siamo riusciti, sbrigati, aprimi, che quello può salire da un momento all'altro. Sbrigati, Enzo mio! Enzo! Sono Agostino, ce l'abbiamo fatta! Aprimi, Enzo! Enzo! Agostino? Agostino, guarda, io proprio non so come dirtelo. Ma io ho capito che sta casa serve per me e che a te. Siamo cinque ormai, c'è pure quello piccolo. Scusami, Agostino! Scusami tanto, Agostino! Ma che davvero? Enzo! Apri sta porta, Enzo. Enzo, sei mio cognato, sei il marito di mia sorella, il padre dei miei nipoti, sei il mio migliore amico. Enzo, apri sta porta. Enzo, non me lasciare fuori. Enzo, apri sta porta. Enzo, apri! E così da quel giorno papà e zio Enzo non si sono più parlati. Bravo. Bravo, Salvatore. Finalmente un bel tema di fantasia. Eh no, ma è, no. Non è mica fantasia questa. Questa è una storia vera. È la mia storia. Ah, mi dispiace. E dove dormite adesso voi? E per adesso siamo ancora a casa di zio, ma il proprietario ci ha già fatto sapere che entro fine mese ce ne dobbiamo andare. Ma la cosa peggiore è che mamma proprio a papà non lo vuole più vedere. Dice che non ci doveva proprio discutere con quelli e doveva trovare subito una soluzione alternativa. Sai, nelle cose, quando ci stai troppo dentro, no? Poi finisce che perdi. Io ero convinto che casa mia era al quinto piano di quel palazzone, invece poi ho realizzato che casa non è solamente un tavolo, un bagno, una cucina. La casa è vederci Lorenzo che fa i compiti su quel tavolo, Erika che si trucca nel bagno e te, Anna, che mi prepari la cena in cucina. Te lo ricordi il carabiniere, quello un po' stupido a me? Beh, ha indagato su Macchiusi, l'ha arrestato. Ha scoperto che aveva tentato di incendiare una roulotte in un campo rom e si era portato pure il figlio. Beh, mi ha cercato e mi ha detto che adesso la casa di Macchiusi era libera e che quindi l'ho occupata, Anna. L'ho fatto bene. Almeno abbiamo un posto dove stare, tanto un affitto adesso non ce lo possiamo permettere, poi si vede, no? Questi sono per te, Anna. Giuro che se torni con me io te li regalo ogni volta che posso, perché io ho capito che senza di te, Anna, non valgo niente. Volevano morale soprattutto, portavano il prosciutto al commissario, andavano alla chiesa con il lutto, contenti di patir la castità. La notte poi giravano nascosti in posti dove Dio non va a guardare, cercando Maddalene e Gesù Cristi di Caracas operati a Zanzibar. Gli presero la casa al quinto piano e non aveva una casa dove andare. Perlomeno ridatemi il divano, nel sacco a pelo mi sento soffocato. Ma Chiusi poi l'hanno carcerato e a Re Bibbia adesso se ne sta nella cella insieme a un immigrato che la notte lo vuole coccolare. E alla fine di tutta la battaglia, solo due parole. E essere eroi non serve la medaglia, ma quello che c'è sotto, il cuore. Te voglio bene, Anna.